Siete nati, a voi pogami amati ed or roveti ardenti, a voi fraternamente ed in eterno, a colombe, certezze, pani soavi, nomi assaporati, lontani per un attimo ed in eterno beati, a voi nel sole dell'ammirabile viso di colei che fu veduta umano paradiso in questi boschi smerigliati, a voi santi or damascati nel nome di quel viso, a quel viso amato tanto, materno volto, santo, santo volto, a voi. Nel vermiglio di un cuore accorato, il bisbiglio di un tempo addolorato, in un'alba d'arsione, sferza alla ragione, tra i giunchi dell'Aione, la dannazione tedesca. Cassino! Rotta la linea, Gustav! Cassino! Rotta la linea, Gustav! Cade il 18 maggio 1944. Il 25 maggio le truppe alleate, quelle provenienti da sud, e quelle attestate ad Anzio da gennaio si uniscono. Il 6 giugno entrano in Roma e la liberano, poi proseguono l'avanzata, spesso preceduta dall'azione dei partigiani. Sul Trasimeno c'è un'interruzione. I nazisti tentano di resistere, ma non possono nulla di fronte all'incalzare degli alleati e devono proseguire il ripiegamento. Devono farlo in fretta. Allora, venivano d'oltre i colli i tonfi delle cannonate. Noi stavamo distesi sull'erba, fermi e rilassati per cercare di cogliere le direzioni e ascoltarli meglio. Però le direzioni erano vaghe, mutavano ogni momento. Era un rumore lento, lontano, a volte affrettato in un solo battito, e gli rispondeva il cuore. A metà giugno Il Valdarno inferiore è massicciamente occupato. Colonne di tedeschi passano dalla riva sinistra alla riva destra dell'Arno e raggiungono gli altri già sul posto. Si dispongono nelle campagne, nei centri abitati. Occupano le case migliori, le ville, le canoniche. Le trasformano in centri di comando, sottocomando, centri di smistamento per le munizioni, appostamenti telefonici. Andavano in giro, lentamente, con un'aria tonda. 2, 4, 6, con la rivoltella ballonzolante dietro i calzoni corti. Ora quei soldati, ogni sera, recitavano la commedia del tradimento, del buon camerata tedesco offeso con le case distrutte in Germania, con la moglie, i figli, i nipoti, mentre noi... La gente non voleva accostarsi. La gente era un odorato da cani, sentiva puzzo di bastonate. Però alle volte, in quella tedescaglia, nasceva un'incomprensibile e preoccupante affettuosità. E allora andavano in giro e prendevano a braccetto, a forza, il primo che incontravano e lo portavano a bere. Con grandi spintoni, grandi risate, grandi sorrisi. E parlavano di camerati. Poi a un certo punto, il disgraziato, in quel clima così rassicurante e commovente, avanzava una domanda. Una sola cosa che gli restava nello stomaco molto più di tutta la roba ingollata. Passare di qui la guerra. I tedeschi non se ne stanno buoni buoni a parlare con la gente in attesa dello scontro con gli alleati. Sfondavano le porte e distruggevano i mobili per fare le legna da ardere e rompevano i vetri, i cristalli e portavano via tutto quello che riuscivano a portare via e quello che non riuscivano a portare via lo tiravano giù dalle finestre o lo distruggevano a colpi di accetta, non risparmiavano nulla e poi dilagati nelle campagne invadevano le case e rubavano i prodotti agricoli che andavano loro stessi a prendere nei campi rubavano il vino, il latte, le uova, i polli, le anitre e le bestie da lavoro non gli bastavano mai e poi distruggevano i boschi e le fattorie, i campi di grano e di saggina e i frutteti e i vivai. Poi c'è il rastrellamento degli uomini, qualche volta per obbligarli a lavori pesanti, altre per rappresaglia. In questi casi le donne corrono in chiesa a pregare. Il Libera Nos Domini diventa Libera i nostri uomini. Nell'estate del 1944 il padule di Fucecchio non ha lavori. Non ha lavori in particolare il centro del padule. Non ci sono braccia sufficienti per farli. E non c'è neanche la voglia, perché la guerra costringe a pensare soltanto alla guerra. Il Sarello e la Cannella sono alti e le pioppaie intatte, però offrono un ottimo rifugio a tutti gli abitanti della zona, agli sfollati dei centri vicino del Pisano del Livornese, ai militari sbandati e ai giovani renitenti alla leva. Costoro sopportano l'umidità, dormono in cesti dei cacciatori o in capanne fatte di cannella. Tutto il giorno vivono con l'acqua stagnante fino alle caviglie, tormentati dalle zanzare, nel pericolo costante di malattie infettive e con la sete difficilmente saziabile, perché è un'estate molto calda, non piove da mesi. Un veterinario li cura come può, è il dottor Giovanni Fernando Panichi. Sono molte le infezioni intestinali, le furuncolosi, le ascesse, le fratture. Questa gente vive nell'attesa costante del cibo che qualcuno gli porta nelle ore più calme, se mai ci sono, dai centri vicini o dalla gronda del Padule. Si fanno lunghi giri con i barchini o a piedi per evitare pericoli. Sono migliaia di persone a cui la notte si uniscono gli uomini scampati ai rastrellamenti e le bestie che i contadini non vogliono tenere nei campi per paura delle razzie della Wehrmacht. Altri, centinaia di persone, al centro del Padule preferiscono la gronda, vicino ai campi pieni di raccolti. Mai, dicono i vecchi contadini, mai si è vista un'annata così per i raccolti e mai si vedrà più. I campi sono pieni di covoni di grano, non è stato possibile trebbiarlo e allora non resta che prenderne un poco, schioccolarlo spiga per spiga e macinarlo come si può. Altri ancora, ad esempio a Querce, danno incarico ad alcuni ragazzi di caricarne 2 o 3 sacchi nascosto fra altra roba inutile e andarlo a macinare a Pescia. Fino a che punto arrivava la nostra incoscienza? Diceva Don Ivo Magozzi. Ma la fame era tanta. Altri ancora usavano i macinini da caffè. Erano ore e ore di un movimento lento e monotono, interrotto solo talvolta dalla rottura del macinino. Questa scelta, andare a vivere in gronda anziché nel centro del Padule, sarà fatale. I nazisti compiranno la strage il 23 di agosto, proprio in gronda. in un'alba d'arsione, sferza la ragione, tra i giunchi dell'Aione, la dannazione tedesca. 84, della tribù di Monsummano. 23, della tribù di Larciano. 19, della tribù di Ponte Buggianese. 13, della tribù di Cerreto. 5, della tribù di Fucecchio. 4, della tribù di Piera Nievole. 4, della tribù di Castelfranco. 3, della tribù di Pistoia. 3, della tribù di Montecatini. 1, della tribù di Lamporecchio. 8 ignoti, venuti da lontano. Il loro crepitato martirio ricordiamo. Il loro sangue schizzato e sparso. Il loro volto affranto. Il loro cuore franto. Il loro pianto terroso. Il loro labbro fangoso. Il loro chinarsi lento e doloroso. Il loro sguardo smanioso. L'ultimo respiro polveroso. E il loro sangue, che profondamente ogni radice e fosso tinse di rosso. E il vento. Castelmartini, frazione di Larciano. Luglio termina con un intenso bombardamento alleato e agosto comincia con l'ennesima caccia all'uomo da parte dei nazisti. E gli uomini fuggivano. Gli uomini non erano nient'altro che fuga. Campi e ciotoli, poggi e palmi non erano nient'altro che nascondigli e rifugi. Alberi, spese di grano. Questa gente aveva negli occhi della bestia selvatica e nell'odore della bestia cacciata con tanta tenacia. E nella figura, invece, forse proprio per quel continuo girovagare tra poggi e oliveti, del minerale e del vegetale, tra la terra e le piante, ma non uomini. Noi non eravamo uomini per i tedeschi. Noi eravamo cose. Macchine sgangherate da caricare. Schiene. Umberto Luschi, 43 anni, sfollato di Livorno. È stato ucciso sull'uscio di casa. Scappa, i tedeschi ti prendono! Lui immobile, il viso incredulo. Cecina, frazione di Larciano. I tedeschi impiccano Celestino Dini e la moglie, Erina Monti. Poi fanno sapere ai 420 che in quella casa, che poi bruceranno, hanno trovato un grosso quantitativo di munizioni. È vero, però ce l'hanno messi i tedeschi stessi. Querce, frazione di Fucecchio. Tre tedeschi entrano in un bosco in Val di Doccia, proprietà Sette Passi. Vogliono dei cavalli che i contadini hanno nascosto nella zona. Qualcuno avverte i partigiani di Emilio Vita. Fanno parte del gruppo i Simoncini, Rodolfo Gasperini, Francesco Ferraguti e Gino Olivieri. Parte lo scontro, poche fucilate. Un tedesco cade ucciso. Gli altri due feriti si allontanano. I partigiani raggiungono il cadavere. Non è un tedesco. È un collaborazionista ucraino. Lo seppelliscono e dopo con le bestie cercano un posto più sicuro. Gli altri due invece arrivano alla fattoria di Colmata. Il primo muore subito. Il secondo fa appena in tempo a stendersi su una brandina da ospedale da campo. I tedeschi per rappresaglia bruciano il bosco. 17 agosto, Fucecchio, rappresaglia. Due tedeschi, fa sapere il comando, sono stati uccisi nel parco della Villa Corsini. Non è vero. Si saprà in seguito, perché i due ubriachi sono passati dal gioco al litigio, conclusosi con il lancio di una bomba a mano. Allora però vanno a prendere Alberto Briganti, 54 anni, che abita nella parte alta del paese, a Sant'Andrea, al numero 6 di Via di Castruccio, di rimpetto alla casa di Gian Giacomo Micheletti. Le voci correvano su rapide per la salita. Nascondete gli uomini, i tedeschi li prendono, li portano via, nascondeteli. Di tutta risposta si sentivano chiudere porte e finestre. Nella strada l'unico rumore era quello delle due donne che correvano urlando. A un certo punto, in un silenzio di pietra, lento, chiuso e ipocrita, il camion veniva avanti senza far rumore, come in un gioco di rimpiattino. Il 22 di agosto gli alleati entrano in Firenze, ormai da giorni liberata dai partigiani. Al comando, il colonnello Kraseman, saputa la notizia, fa chiamare il capitano Josef Strauch e gli dice: distruggere case, ricoveri, esseri umani esistenti nella zona. Vernichten. Annientare. Vernichten. Questo può togliere tutto ciò che potrebbe andare a vantaggio dei partigiani o di coloro che gli danno aiuto o ricetto. La mappa geografica è presto fatta. La zona è delimitata ad est dalla strada statale 436 che porta a Monsummano. A sud finisce praticamente dove avviene la confluenza tra il canale del Terzo e il canale del Capannone e dove incomincia il canale Maestro. A ovest termina ai piedi delle Cerbaie, mentre a nord in quella linea retta che va dall'Anchione alla Capanna Borghesi e Corrieri e si ricongiunge alla strada 436. È un triangolo enorme, delimitato da picchetti sistemati con precisione teutonica. Il capitano Josef Strauch non discute l'ordine, anzi lo ritrasmette ai suoi reparti della 26esima Panzer Division, alcuni dei quali chiamati della sicurezza proprio perché specializzati nel seminare il terrore nella popolazione locale quando la Wehrmacht si ritira e si appresta a sistemare il comando operativo nei pressi di Ponte Buggianese. Pertanto non segue i reparti nell'azione. Stabia, frazione di Cerreto Guidi. Un maresciallo arriva a Villa Martelli. Sotto gli occhi di pochi curiosi, soprattutto anziani, fa dei rilievi. O finge di fare dei rilievi. È il terzo giorno consecutivo. Qualcuno vuole spiegazioni. Non è mai successo un fatto del genere. Forse vogliono metterci un cannone? Il posto diventa pericoloso. San Rocco di Larciano. Al comando, un maresciallo maggiore austriaco si avvicina ad un italiano e gli dice, sottovoce: stanotte, grande lago, caput. La voce si sparge. Molti possono essere avvertiti. Fra di loro non c'è Agostino Bandini, detto Mea, 30 anni, industriale del Sarello, che vive a Massarella, vicino a Badini. Il padre lo cerca e non lo trova, però trova altri vicino al fosso del prete. Ma che fate? Tornate! È certo che si torna! E Agostino! Non è venuto con noi! A mezzanotte, le popolazioni che affacciano sul Padule sentono un grande rumore di mezzi. Molti arrivano addirittura a credere che i tedeschi siano in ritirata. Ponte Buggianese. Nei pressi della fattoria Prato Grande. Mezzanotte è passata da un pezzo. Un centinaio di uomini e 5 camion entrano nella corte del casone Pucci. Fanno uscire gli abitanti, circa una ventina. Vogliono il padrone. Armando Pucci si presenta. Il capitano vuole l'esatta ubicazione dell'essiccatoio di tabacco e di altre case coloniche segnate in rosso su una carta geografica. In particolare vogliono la scorciatoia, la via più breve per arrivarci. Il Pucci è costretto a mettersi a disposizione di una ventina di soldati. Vanno prima a casa di Rocco Cardelli. Qua trovano soltanto donne e bambini. Poi in quella di Piacentino Tognarelli. Chiudono tutti dentro ad una stanza, mentre gli altri tedeschi continuano a rastrellare le case vicine. Poi tornano, prendono il Pucci e con lui fanno a ritroso la strada dell'andata. All'incrocio di via Gallicani lo liberano e lui può tornare a casa dal ponte di Mingo. Arrivato a casa non si sente muovere anima viva, i tedeschi non ci sono più. Entro in casa, guardo in tutte le stanze, nessuno. A un certo punto finalmente una voce amica mi chiama su dalla finestra e mi invita a salire. In quella stanza lassù trovo rinchiuse tutte le persone che vi avevo lasciato prima. L'ordine era stato severo e perentorio. Non aprite finestre, non sparate, non uscite. La vita ne va di mezzo. Querce, frazione di Fucecchio. Don Ivo Magozzi è sempre sveglio per il caldo, per l'afa. Sente rumori diversi e decide di scendere a dare un'occhiata. Un nazista lo ferma. Non potete! Raus! Torna a letto! Don Ivo si affaccia alla finestra che dà sul Padule. Due giovani, che vivono da tempo nella stessa stanza, gli si fanno accanto. Ma che cosa sta succedendo? Don Ivo è tutto scombussolato dentro di sé. Sa benissimo che in Padule vivono migliaia di persone. Almeno 200 sono suoi parrocchiani. Si veste ed esce. Ancora una volta un nazista lo ferma. Non potete! Raus! Il sacerdote questa volta è irremovibile. Il tedesco gli fa capire che va a suo rischio e pericolo. Ho capito, dice. E imbocca la viottola che porta al fosso Sibolla. Vuole attraversare il ponte in località Puntone, ma c'è un posto di blocco. Sono un sacerdote! Parla con apprensione. Dal Padule si odono lamenti. Invocazioni di aiuto, c'è la luna piena, si vede di lontano. Qua e là, ombre che fuggono prese di mira dai nazisti. C'è gente che sta morendo là! Sono un sacerdote! Niente da fare. Viene costretto a tornare a casa, gli dicono di stare tranquillo. Non potere! Raus! Raus! Sono le due. Guido Matteoni è già morto. È il primo morto della strage. L'hanno preso su un barchino e ora è in mezzo nell'acqua. Cintolese, frazione di Monsummano, a casa Simoni. A casa Simoni, un grosso edificio, gli sfollati sono molti. La maggior parte appartengono alle famiglie Arinci, Giacomelli e Grassi. Gli Arinci e i Giacomelli vivono al Podere le File, non lontano dalla statale. Sono stati costretti ad abbandonare l'abitazione dopo l'arrivo dei tedeschi, che l'hanno trasformata in un comando. Ai primi spari, gli uomini, che non sono andati a dormire nei campi, si sono dati alla fuga. Amato e Armando Arinci si sono buttati insieme ad altri nelle fosse e, costeggiando il rio di Pazzera, hanno raggiunto la provinciale e da qui la casa di un parente, a Dio l'aiuti. Le truppe entrano nell'aria, qualche raffica di mitraglia, la gente si desta a sorpresa. Uscire tutti, schnell, schnell! Quelli della stalla obbediscono e vengono messi al muro. Gli altri, vedendoli lì, tutti in fila, con una mitraglia a destra e una a sinistra, si rifiutano di imitarli. C'è grande agitazione, si entra in casa, si esce, c'è chi urla, c'è chi piange. Ma che volete? Che cosa vi abbiamo fatto? A urlare è Elisa Arinci, vedova, 54 anni, si getta ai piedi di un tedesco. Raus le ordinano. Allora vado al Corriere. Corriere, non potete fare qualcosa voi, non potete? No, io non posso fare proprio niente. Io sono come voi, non so neanche come stia la mia famiglia e la mia capanna. La donna torna verso casa, sulle scale incontra il figlio Marino, 19 anni, seminarista, che è malato. L'hanno buttato giù dal letto a calci nel sedere. Ma lasciatelo stare, sta male, non vedete che è malato? Raus, Raus! Giuseppe, pensa a Giuseppe. Elisa si ricorda di Giuseppe, il figlio piccolo, 11 anni, che è ancora in casa, fa le scale di corsa. Mamma, mamma, ci vogliono ammazzare tutti. No, no, mamma, ci vogliono ammazzare tutti. Non è possibile. Al piano di sopra dei tedeschi tentano di radunare le persone, di spingerle a pian terreno. Giuseppe si libera d'uno, raggiunge la madre, quando stanno uscendo ecco una raffica di mitraglia. Elisa vede cadere Marino, colpito a morte. Si getta su di lui e grida: assassini, non avete pietà per nessuno. Un'altra raffica la falcia. E falcia anche Giuseppe. Giorgio Mazzei, che era accanto ad Anna Maria Tognozzi, e alle sue due bambine, Vanna, 7 anni, e Severina, 1 anno e mezzo, sente le pallottole sfiorarlo e gli urli di dolore delle bambine. Rimane come paralizzato, con la bocca aperta e con l'unico pensiero: ora ammazzano anche me. Tu, piccolo partigiano! Venite qui! Lui si avvicina piano piano, sempre guardandolo negli occhi. Mi ammazza, pensa. Poi a un certo punto gli viene in mente che ha un permesso in tasca. Lo tira fuori, glielo mostra. Il foglio finisce in terra a pezzettini. Allora il soldato gli ordina di mettersi a terra, accanto ai corrieri, e di portare altre 2 cassette di munizioni. Tu, piccolo partigiano! Postare! Parte un'altra raffica. Altra gente cade a terra. Natalina Arinci prende i 2 figli, Santi, 5 anni, e Giampiero, 1 anno, e un paniere di uova, e cerca di scappare. Stanno quasi per raggiungere i campi. Una raffica li raggiunge. Cadono tutti e 3. Giampiero si lamenta. Il colpo alla testa del calcio del fucile lo zittisce per sempre. Piero Simoni, 8 anni, Vittoria Tognozzi, 7 anni, e Beppe Simoni, 5 anni, riescono a scappare per i campi di Saggina con la nonna Argenta. Stella Arinci e Nella Simoni si sono rinchiusi in un armadio di casa. I tedeschi all'inizio non le hanno viste e sono tornati nell'aia. Ma le 2 donne, sentendo le grida dei loro nell'aia, non riescono a resistere. Si affacciano alla finestra e vedono i corpi per terra e allora iniziano a gridare. Gridano che sono assassini e che li conoscono bene. Un tedesco getta una bomba a mano verso la finestra. La traiettoria è sbagliata. La bomba urta il muro e rimbalza nell'aria. C'è un fuggi-fuggi generale. L'esplosione fa sussultare i cadaveri vicini. Assassini! Assassini! Le due donne non riescono a smettere di gridare. Poco dopo, una bomba le dilania. Casimiro Giacomelli, un anziano, riesce a imboccare la porta sul retro e scappa per i campi. Una vecchia cieca si aggira in mezzo ai corpi. È Carmela Arinci, 93 anni. Non capisce bene cosa stia succedendo. Cerca i suoi. Perché non mi rispondete? Inciampa in un cadavere. Il braccio teso. Se un nazista le si fa vicino, toglie la spoletta d'una bomba a mano, gliela mette nella tasca del grembiule. Poi corre via svelto. Pochi secondi, il corpo della donna è spezzato dall'esplosione. I corpi vengono ammucchiati accanto al muro. Molti ricevono in testa un colpo di pistola. Su casa Simoni piomba il silenzio. In un'alba dal sole, sferza alla ragione, tra i giunchi dell'Aione, la dannazione tedesca. Castel Martini. Giuseppe Fanni racconta. Ero in un pagliaio insieme ad altri, a una cinquantina di metri da casa Silvestri. La notte, per noi uomini, non era punto prudente dormire in casa. I tedeschi facevano rastrellamenti. È giorno, forse sono le 7. Già da un po' si sente sparare verso casa Simoni, dall'altra parte del canale. E si sente anche urlare. Più si sente sparare, meno si sente urlare. Non c'è più tempo ad avvisare qualcuno ad uscire fuori dai pagliaio, perché i tedeschi sono entrati nell'aia di casa Silvestri. Sono una decina, forse di più. Una voce e dice in italiano pulito, me la rammento bene, che tutti devono uscire di casa. Lì ci sono molte persone, ci sono molti bambini. Qualcuno è dentro e qualcuno è fuori invece, come annunziata Lepori, moglie di Guido Mazzei, che era lì che stava dando da mangiare al suo figlioletto Antonio di 2 anni. Qualcuno non esce e cominciano a sparare. Sono solo 3. Che sparano. Gli altri sono fermi, ai lati dell'aia. Sparano ad Annunziata, sparano al bambino. Annunziata cade ferita e muore, il bambino viene ferito ad una gamba. E poi entrano in casa. Entrano in casa e sparano a tutte le donne in cucina, sparano a tutti quelli che incontrano, e sono soltanto 3, ripeto, solo 3. Sparano a Gino Romani, al mio suocero. Gino Romani cade ferito e muore, il mio suocero viene ferito ma sviene. E colpiscono anche uno di loro, per sbaglio, un tedesco, l'ammazzano. Però invece non sparano a quelli che hanno avuto la prontezza di infilarsi nell'aia tra i tedeschi che stavano ai lati. Perché quelli sono tedeschi che si conoscevano, che venivano spesso a chiedere vino, pane, acqua, uova. E il mio suocero, per tenerli buoni, non gliel'ha mai negati. E tra quei tedeschi lì ci sono le mie sorelle, Bruna e Beppina, e c'è anche un altro parente, Alfredo Pratolini, marito di Bruna. Però loro non stanno fermi, non stanno zitti, no. Loro urlano. Loro dicono che quelle cose lì proprio non dovevano farle, che sono cose da assassini, che sono degli assassini. Piangono, si disperano. Ma quelli niente, quelli non se ne curano. Alcuni vanno verso il Padule con un cannoncino, altri vanno verso Casa Romani sul Poggetto. Hanno anche ammazzato il piccolo Antonio con il calcio del fucile. Allora io dovevo uscire fuori dal pagliaio. Io dovevo vedere com'era la situazione in casa. Chi era vivo, chi era morto. Era uno spettacolo da far svenire. Ada Silvestri è ferita, ma non c'è niente da fare per lei. E muore poco dopo. La mia fidanzata è morta. Morta è anche Giuliana Cappelli, una ragazza di 16 anni. Il padre Angelo, un paralitico. Armida Silvestri, Gelsomina Silvestri, accanto al corpo di Gelsomina ci sono i corpi dei suoi due figlioli, Giuseppe, 9 anni, e Rosella, 1 anno e mezzo. Allora io parlo con le mie sorelle, non sappiamo cosa fare. I tedeschi a un certo punto incominciano a sparare da Casa Romani con la mitragliatrice da 20 mm, noi ci si nasconde come si può, poi tornano indietro e mi vogliono ammazzare. Allora mia sorella dice a uno di loro che io sono suo marito e che vengo da Cecina e che bisogna che in tutti i modi io torni là. Parla con i soldati, a un certo punto uno le risponde e le dice che io sono buono, io austriaco, io chiedo al mio sottufficiale, va a parlare col sottufficiale. Se quello dà l'ordine di sparare, lui lo deve fare, pena la morte. E però torna e dà un altro ordine. Però è per questo che noi abbiamo raggiunto la villa Poggi Banchieri. Popolo, se mi ascolti, ti spiego la tragedia del 23 d'agosto, l'orribile commedia che ha raccontato. Castel Martini, nel casotto del Marchese Migliorati presso Villa Martelli, gli sfollati si svegliano con colpi di mitraglia. In un salottino al pian terreno del casotto Migliorati, il veterinario, il dottor Giovanni Fernando Panichi, dice alla moglie: ci sono i tedeschi! E pensa di nascondersi. Già una volta ero stato preso dai tedeschi, mi trovavo al ponte sulla Gora e l'idea di seguirli per chissà dove non mi andava giù. Sicché schizzai sotto il ponte. Ma avevano cercato inutilmente per una decina di minuti. Adesso però non sa che fare. Bussano alla porta. Lui e la moglie si guardano. Poi una voce di donna dice di andare alla fattoria del Martelli. C'è un ferito. Arrivo subito, risponde i Panichi prendendo la borsa. Più che le bestie, da quando ha sfollato i margini del Padule, cura le persone. D'altronde il medico condotto si trova nella zona liberata dagli alleati di Ladarno. Il ferito è Benedetto Benedetti. È ferito al torace, al polpaccio e anche a una coscia. Il comando tedesco presso Ponte Buggianese, interpellato dal segretario del comune e dal dottor Baldi per la sepoltura dei cadaveri, ha rifiutato l'inumazione al cimitero. Ha soltanto permesso la medicazione dei feriti. Ma padre Magrini, insieme al segretario comunale, decide comunque di fare un piccolo cimitero nel campo dello zio del prete. Sono pochi uomini al lavoro. Tutti parenti stretti delle vittime. Bruno e Settimo Magrini, Sabatino Cappelli, Guido Pucci sono presenti, sfidando l'ira tedesca, che ancora sentono imperversare vicino. A fossa ultimata c'è il trasporto. Spoglio mesto di pompe ed onori ancor più che al fronte in prima linea. Io, sacerdote, benedico le salme. Poi avvolgiamo in un lenzuolo e l'adagiamo su un carretto e su della paglia. La solitudine rende ancora più triste la cerimonia. All'improvviso, grida di disperazione. Si guardano intorno, in una fossa, non lontano da loro, una donna ha trovato il marito. Popolo se mi ascolti, popolo se mi ascolti, ti spiego la tragedia, ti spiego la tragedia, il 23 d'agosto, l'orribile commedia, popolo se mi ascolti, a raccontarla, ti conterò. Non so se in fondo arriverò. A voi che fingeste l'acqua di sanguigno nello scompiglio del cuore delirato, umilmente il bisbiglio dell'anima oscurata. A voi, giunchi di porpora, che in questo umidore cilestro siete nati. A voi, bogami amati, ed or roveti ardenti. A voi, fraternamente ed in eterno. Anchione, quella stessa mattina Dina Bartolini entra nell'essiccatoio e grida: fate scappare gli uomini, arrivano i tedeschi! In tutta distanza sode un rumore di motori e urla di comandi. Non c'è un minuto da perdere. La stessa scena si era ripetuta già più volte, però sempre senza conseguenze. Allora gli uomini decidono di scappare nel centro del padule, mentre le donne, finora rispettate, restano in casa. E gli uomini escono di nascosto da una botola sul retro dell'essiccatoio. Appena sono fuori, ecco parte la prima raffica. La gravità della situazione è subito intuita. Non si cercano uomini da portare a lavoro, si fa un'azione di guerra. La soluzione potrebbe essere rompere il cerchio che si va sempre più stringendo attorno al padule. Ma non è possibile. Non resta allora che gettarsi nel centro del padule, confidando di nascondersi per la natura stessa del terreno melmoso e la vastità dei canneti. Nell'essiccatoio i tedeschi entrano, sparano in aria sulle porte d'ingresso e ordinano: uscire tutti, uscire! Tutti quanti escono con la paura che l'essiccatoio potesse esplodere con le loro cose dentro. Vengono tutti fatti allineare contro il muro. Ecco parte la raffica. Cadono tutti a terra. Ma non tutti sono morti. Emilia Malfatti, a fianco dei corpi dei figli, raccoglie le ultime energie e grida: assassini! Assassini! Un'altra raffica la finisce. Elena Malfatti è l'ultima ad uscire. Io mi stavo finendo di vestire quando la mia mamma, la mia sorella e i miei due fratelli piccoli erano già scesi. Poi ho finito di vestirmi anch'io e sono scesa e c'erano per terra tutti i corpi e un tedesco che gli buttava un fucile davanti. E ho visto che da una parte c'era la mia mamma per terra e allora siamo corsa su di lei e accanto c'era il mio fratellino inghilesco di 9 anni che era morto. Elena e Marcella Malfatti ferite si fingono morte. Anche Maria Guiducci lesa si finge morta. Accanto a lei Sandra Nicole Settepassi, 17 anni. È crivellata con 17 proiettili nel petto. Più in là Giancarla Fellini non dà segni di vita e la contadina Dino Bartolini si lamenta. Ha uno squarcio nell'addome. Dosolina, 12 anni, è riuscita a scappare. Era al lato della fila, all'angolo dell'essiccatoio, vicino alla porta socchiusa. Sente partire la raffica, un dolore lancinante alla mano sinistra, ma è viva. Si getta distinto dietro la porta, cercano di raggiungerla con un'altra raffica e non la prendono. Anche un tedesco la cerca nei campi e non la trova. Dosolina è passata dall'essiccatoio ai campi, dove vi rimarrà per molte ore. Al suo ritorno troverà tutti a terra, anche Maria Guiducci, perfettamente incolume, e le due sorelle, Elena e Marcella, ferite, però ancora in preda allo spavento e sfatte dal dolore, sono lì, distese fra i corpi morti. Stabia. Alla casa Turini, in località Bagnolo, il padrone e gli sfollati sono a tavola. È mezzogiorno. Angelo Borghini, 63 anni, e il figlio Dario, 33, sono spinti in un gruppo di civili. La moglie di Dario, Bianca, incinta, tenta inutilmente di opporsi, ha in collo il figlio Guido, 18 mesi, per mano la figlia Carla, di 6 anni. Non le rimane che restare lì sullo stipite della porta a guardare il gruppo che si allontana. Ma non gli fanno niente, li portano a lavorare, fra qualche giorno ritornano. Non fa in tempo a finire la frase che il gruppo è annientato dalla mitraglia. Allora Bianca chiede aiuto ad un'amica per i figlioli e corre verso il suocero e il marito, si mette lì accanto a Dario, si inginocchia, sta lì. Sta lì senza piangere, senza gridare. Tiene gli occhi fissi sul ventre squarciato del marito. Poi torna dai Turini, prende un carretto, ci carica sopra il suocero del marito e va alla chiesa. Passa per il vione di Bagnolo. Non si accorge però che ai lati della strada ci sono due cadaveri, un uomo e una donna. L'uomo è Salvatore Galieno, 42 anni, agente della pubblica sicurezza di Montecatini. I tedeschi lo hanno ammazzato questa mattina perché stava andando a portare da mangiare ad amici sfollati nel centro del Padule. La donna, invece, l'unica donna ammazzata nei pressi di Stabia, è Angela Santini, 64 anni. È la suocera di Bianca. I tedeschi l'hanno centrata da lontano. Andava a casa in località Fornace per governare i conigli. Hanno anche cercato di sotterrarla. Ma ora sta lì, nel mezzo ricoperta da ciuffi d'erba. Bianca va a parlare con Don Bellaveglia. Gli chiede di seppellire i suoi. Il prete dice che non è possibile, ma Bianca è irremovibile. Fatemeli seppellire o me li seppellisco con le mie mani. Allora il prete cede. Bianca prende i figli e senza curarsi del pericolo fa la strada che la porta a Massarella, alla casa dei fratelli. I fratelli hanno saputo del suo arrivo grazie a un conoscente. Ma che ci fai qui? C'è pieno di tedeschi in giro. Me l'hanno ammazzato. Hanno ammazzato anche mio suocero. C'è la sangue dappertutto, sul volto, sulle mani. La sua mente resterà per sempre ferma in questa immagine, in quel momento lì. Nel gruppo dei Borghini, un ragazzo di 17 anni, figliolo del Pieri, avanza incespicante, non gli reggono le gambe. Li mettono in fila e gli sparano. Sparano a tutti. Il ragazzo sviene una frazione di secondo prima. Il sangue del vicino gli copre il viso, i vestiti, sembra morto. È cascato con una mano sul volto. Il capitano della pattuglia estrae la pistola per dare il colpo di grazia a tutti. E spara anche al Pieri. Non una, ma due volte. E tutte e due le volte colpisce senza accorgersene una mano. Quando si risveglia, i tedeschi sono già lontani. Si guarda intorno, vede i morti. Non riesce a capacitarsi di essere ancora vivo. Nomi assaporati, lontani per un attimo ed in in eterno, beati a voi, nel sole dell'ammirabile viso di colei che fu veduta, umano paradiso in questi boschi smerigliati, a voi santi, voi damascati, nel nome di quel viso, a quel viso amato tanto, materno, volto, santo, santo. Il loro volto affranto, il loro cuore franto, il loro pianto terroso, il loro labbro famoso, il loro chinarsi lento, doloroso, il loro sguardo smanioso, l'ultimo respiro polveroso, il loro sangue che profondamente ogni radice e fosso tisse di rosso. Dormi, pur se bufera c'è, abbi pietà di me. Signore dei pianti e degli anemoni, signore che da 30 anni sei in pensiero per me, prima che mi colpisca, ferma il baleno del dubbio che mi fa sfiduciare di te. Eccoli là, sono vicini al trono di Dio, nel cielo cremisi, quei martiri nostri, e odono dalla Ione un canto salire. Non posso riposare, amore caro. Per te l'anima mia si fa tormento. Oh, è un volo l'essere nati. Un apparire breve, come fa il sole al colmo dell'inverno. Non posso riposare, amore bello. Il pensiero che va a te m'accora l'anima d'eterno. Guarda, il Signore mi prende per mano.